Che ci ha sorpreso un po' tutti, e allora volevo chiedere un'opinione all'avvocato Giancarlo Maniga, che è stato il primo che ha firmato la denuncia che si è fatta nel 1999. Due metri e piedi? Ah, sì, certo. Figurati, poi il gesto sarà più eloquente. E perché ha la voce? Tra il cantante del Coro Verdi di Milano. Allora, parlo io, non certo perché. Ecco, non certo perché sono più importante, ma come giustamente dice Jorge, perché al processo Condor, specificamente all'operazione Condor, abbiamo dato l'inizio insieme col suo aiuto. Con una cosiddetta notizia crimis, cioè un atto di denuncia depositato in procura a Roma per alcuni casi che poi sono aumentati strada facendo, perché le indagini del pubblico ministero, che allora era solo il dottor Tapaldo, ha fatto sì che i casi si moltiplicassero, in quanto le indagini davano luogo ad altri accertamenti, ad altri fatti. Poi è avvenuto che contemporaneamente era stata presentata una denuncia anche per i fatti solo del Cile, cioè quelle relativi al golpe cileno del 73, quindi precedenti alle vicende osservate dal Condor. E siccome la materia era simile, i luoghi erano quelli, i due processi poi sono stati unificati, ancora in indagine sono andati avanti in contemporanea. Dire avanti è un po' un eufemismo, perché in effetti ha marciato queste indagini con una tale lentezza, e vabbè, insomma, ci sono varie motivazioni. La difficoltà di fare indagini non a portata di mano, ma in un altro continente. Insomma, poi voglio dire, ci sono magistrati ultra rapidi, altri che vanno più coi piedi di piombo. Ognuno ha il suo metodo. Sta di fatto che queste indagini sono obiettivamente durate molto, anche considerando la difficoltà di reperire elementi in una situazione del genere, sono durate troppo. E siccome erano già iniziate a distanza di quando i fatti sono avvenuti, perché sappiamo tutti che i fatti si centrano tra il 70 e l'80 del Novecento, voglio dire, il tempo del passato, il tempo ne è passato parecchio, e il tempo cancella molte cose. Tra l'altro il tempo ha determinato anche che molti degli indagati, poi imputati, per ragioni naturali, passassero ad alto giudizio. Quindi è andata così, recriminare adesso non ha senso, perché ormai noi ci siamo buttati in questo processo, che è durato anche nella fase effettiva abbastanza a lungo, è durata a lungo più del solito l'udienza preliminare, perché poi c'erano altri elementi documentali da recuperare, è durata a lungo la fase dibattimentale, perché come avete visto è durata 2 anni, perché c'erano tanti testimoni da sentire. Adesso poi col nuovo codice di procedura penale, nuovo per modo di dire, perché in funzione da parecchi anni, ma le regole secondo le quali le prove si raccolgono tutto solo le prove che contano in dibattimento, nel dibattimento in sostanza si è dovuto fare tutto da capo. Questo per dare una sommaria spiegazione di come si è svolto il procedimento e delle difficoltà che questo procedimento ha comportato. Quanto alla sentenza, l'avete sentita tutta, e qui è il dispositivo. una buona regola, per la verità, e vale, questo vale per tutti, per noi avvocati, per chi se ne occupa, per giornalisti, per tutto quanto, una regola generale è che una sentenza la si giudica solo in maniera compiuta e soprattutto meditata a dovere quando sono motivate, depositate le motivazioni della sentenza. Questo è il risultato di un lungo lavoro che la Corte ha fatto e di cui darà conto in una motivazione per la quale si è presa 90 giorni di tempo, come c'è scritto in fondo, che è il termine stabilito per legge come termine massimo, che potrà essere osservato, e se non viene osservato non succede niente, se non è qui delle notifiche agli interessati. Quindi, a farla breve, ci sono condanne e assoluzioni. Se le assoluzioni hanno determinato qualche perplessità, o peggio, qualche malumore da chi ha curato con passione, con dedizione, di cui molti, tutti i nostri colleghi sono capaci, sicuramente la sentenza darà spiegazione. Noi possiamo solo fornirne una ipotesi, perché sembra abbastanza evidente da quello che vediamo che siano condannati coloro che rivestivano posizioni apicali, posizioni di comando, e che l'assoluzione, con formula per lo più anche dubitativa, perché lo si vede dalla norma richiamata, perché per molti riguarda la vecchia formula che si chiamava per insufficienza di prove, che non esiste più perché il nuovo codice l'ha abolita, perché si considerava iniqua, però quando si dice non è stata raggiunta la prova, non ci sono elementi sufficienti che il fatto Tizio l'ha commesso, allora io assolvo perché Tizio non ha commesso il fatto, ma lo dice che non sono state raggiunte la prova. Quindi, se non è nella formula finale che è di assoluzione, scusate, se non è nella formula finale che è di assoluzione tout court, obiettivamente si intuisce così. Ed è anche comprensibile, poi ripeto, non tutti i casi sono stati trattati da me, poi potranno parlare meglio e più accuratamente quelli che hanno trattato i casi per i quali le assoluzioni in qualche modo bruciano. Io vedo comunque da una lettura sommaria e, ripeto, del tutto intempestiva, perché la lettura di una sentenza completa si fa con le motivazioni, mi pare di capire che la sentenza ha colpito senza esitazione, perché ha ritenuto che ci fossero le prove, tutti coloro che avevano delle posizioni di comando, ma a tal punto che non sono stati condannati con la pena massima solo, cito i casi che ho visto io, Blanco per l'Uruguay e per il caso Banfi, Ramirez per il caso Venturelli, non posso dire se sarebbe stato o no condannato Alvarez Armellino, perché è intervenuto il decesso e quindi la dichiarazione di interruzione per intervenuto decesso prevale su qualsiasi altra, però anche lì probabilmente dalla sentenza vedremo se erano stati raggiunti elementi di prova nei suoi confronti, perché se no prevarrebbe la soluzione anche nei confronti di una persona deceduta. Quindi, per concludere, questi signori sono stati condannati perché è provato che erano in una posizione di comando e da loro dipendeva tutto. Era talmente visibile questo concetto, poi ripeto, sto andando per ipotesi, che sono stati condannati anche i boliviani Arce Gomez, Garcia Mesa Tejada, poi i peruviani, che, per i quali no, confesso avevamo qualche perplessità, perché non c'è la prova evidente del collegamento col fatto specifico, e sto parlando per esempio del caso Vignas, del caso Campiglia, ma sono stati condannati come ideatori e partecipi al plan Condor, presumo, proprio in quanto posizione apicale, applicando quel concetto per il quale noi ci siamo ampiamente battuti per sostenere che chi aveva la responsabilità di comando deve per forza rispondere. E sono stati assolti alcuni gli imputati minori, per esempio per il caso Venturelli, presumo perché, anche se si è provato che facevano parte dei, partecipavano agli interrogatori e alle torture, non è detto che fossero i materiali esecutori proprio della, dell'omicidio di Venturelli, perché l'esecutore materiale risponde per quello che materialmente fa, mentre il comandante che dà le disposizioni risponde per tutto. Quindi ho l'impressione di leggere, salvo, e poi sentiremo il parere dei colleghi che ovviamente potrebbero avere pareri diversi dal mio, ma mi sembra di leggere un po' questo spirito della sentenza. Io qui esprimo soddisfazione per i casi miei, naturalmente lasciando a chi trattava altri casi per i quali ha avuto una delusione di esprimere eventualmente pareri diversi o di sentire. Questo mi sembra di massimo. Qualche altro avvocato vuole fare il... Ma pochissime parole. L'avvocato dei familiari della Bolivia. Sì, no, no, io delle condanne abbiamo avuto Campiglia, il caso Campiglia, il caso Stamponi, Montiglio, Recagno. E invece purtroppo per la vicenda Salerni, Troccoli e quei terribili giorni che vanno tra il Natale del 77 e il Capodanno del 78, abbiamo avuto invece non è stata riconosciuta la colpevolezza. Io ho lì i casi di Moiano e di Rio Casas, quei terribili giorni che abbiamo ricostruito nel posto di Banfield, e anche sul ruolo di Troccoli e degli altri aguzzini che hanno partecipato. Io sono sostanzialmente d'accordo con quello che dice Manica. Vedremo le motivazioni innanzitutto, ma c'è un fatto importante e io credo che questo ci debba tutti unire oggi in una considerazione su questo piano altamente positiva. Dopo più di 40 anni dall'altra parte dell'oceano, con un processo che con i tempi, le tempistiche, le pause, i passaggi, le difficoltà procedurali, le nostre carenze e quant'altro, ha ricostruito che quell'operazione Condor è esistita. Chi sono i responsabili dell'operazione Condor? Molti sono morti nel frattempo, ma che quelle dittature assassine hanno concepito un piano sanguinoso che si è perseguito e continuato per anni, che ha avuto complicità, e lo vedremo che sarà anche questo, uscirà dalla sentenza, non solo nei paesi del Latino America, e che ha prodotto vittime e ha costruito un sistema brutale di terrore, di sequestri, di omicidi, di morti, che è veramente difficile trovare nelle storie recenti dei nostri paesi. E questo è un fatto importante. A Roma abbiamo costruito un passaggio importante e abbiamo fatto vivere anche la storia di tante persone che rischiavano la cui vicenda rischiava di essere dimenticata, perché io credo che la storia di nel mio caso ricordo, ma altri le ricorderemo, di Rio Casas, di Moiano, quella umanità terribilmente violata in quelle giornate terribili ha potuto rivivere. Noi, io credo che aspettiamo le motivazioni, ma già dal dispositivo io vedo che c'è una contraddizione. Guardate, nel, al di là della, della individuazione del responsabile materiale di un fatto, il concorso delle persone nel reato, nel nostro sistema, ma io credo in tutti i sistemi avanzati, giuridici avanzati sul piano penale, non è soltanto il grande capo mandante, ma tutti coloro che con loro concorso hanno agevolato, determinato l'altrui volontà criminosa, costruito momenti che hanno rafforzato il sistema dentro il quale le morti si sono determinate. E noi, io penso, parlo del caso più illustre che più ci brucia, e che più ci brucia, che è quello di Troccoli, noi di tutto questo, della sua partecipazione, del rapporto tra il FUS nell'ESMA, avevamo gli elementi di prova, li ha dati lui stesso, ce li ha forniti. Dobbiamo pungolare la Procura della Repubblica e la Procura Generale perché l'appello ci sia, perché l'appello sia fatto bene, perché la, le nostre istanze, perché sia fatto appello, contengano già i motivi di appello. Io sono convinto che davanti alla Corte d'Assise d'Appello avremo giustizia. Sì, è difficile usare la retorica dell'avvocato in un momento del genere e personalmente non la userò. È difficile anche provare un sentimento univoco in questo momento, perché non posso che essere felice per i casi che hanno avuto giustizia, non posso che essere terribilmente amareggiato pensando alle storie ascoltate nell'aula giudiziaria per i casi di assoluzione. Vedo fra gli assolti tutti i militari uruguaiani, l'unico condannato per l'Uruguay è un civile. C'è una soluzione quindi del mondo militare uruguaiano in questa sentenza. Io non so se questo è un caso, lo valuteremo leggendo le motivazioni della sentenza, o se non è un caso, non sono in grado di valutarlo. In Italia del resto parliamo spesso di Latino America, ovviamente il caso è latinoamericano, anche se abbiamo cittadini italiani in molti casi del nostro processo. Ma mi piacerebbe, ecco, fare una brevissima riflessione su quello che nel nostro paese abbiamo vissuto, immaginando idealmente un riverbero di queste realtà che abbiamo vissuto in Italia anche nelle vicende latinoamericane. Vorrei ricordare, forse non tutti lo sanno, non tutti voi se seguite le cronache giudiziarie italiane su fatti accaduti 40 anni fa, che la strage per la il processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 74 ha avuto una sentenza di condanna di due persone, un membro dei servizi segreti militari del tempo italiano e un membro dell'organizzazione neonazista Ordine Nuovo, parliamo di fatti del 74, ha avuto una sentenza di condanna nell'anno 2015 e la motivazione l'abbiamo conosciuta pochi mesi fa. La città in cui vivo, Bologna, ha avuto una strage nel 1980 e le sentenze su quella vicenda sono arrivate 20 anni dopo, in alcuni casi anche di più. Allora, in sostanza, ecco, io ho fatto 8 processi penali su crimini nazifascisti avvenuti in Italia nel 1944 e le condanne, le ultime, sono dell'anno scorso, record, 72 anni. Sono tutti questi che cito reati politici, nel significato dell'articolo 8 del codice penale, le stragi cosiddette di Stato, abbiamo qui l'avvocato Gentili che le ha vissute in prima persona negli anni 70 come difensore, Piazza Fontana, i crimini di guerra commessi nel 1944 dai nazifascisti, penso a Marzabotto e a tanti altri contesti di crimini di massa, e così le stragi e il terrorismo interno negli anni 70 e 80. Ecco, questi reati aventi natura politica hanno verità giudiziarie che arrivano 40 anni dopo, 30 anni dopo, 20 anni dopo, cioè con dei ritardi abnormi. Altra costante, quindi la prima è il ritardo, che ci accomuna con questo processo, perché oggi abbiamo avuto una sentenza per fatti del 73-78. Seconda questione, il condizionamento, la manipolazione e il depistaggio delle indagini. Anche nelle storie giudiziarie italiane queste si manifestano puntualmente. Anche nelle vicende italiane i magistrati faticano enormemente per decenni per trovare via via fonti di prova che 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa non esistevano nella disponibilità della giustizia. Qui in America Latina abbiamo il fenomeno della giustizia di transizione. E le giustizie di transizione in America Latina hanno storie molto diverse. L'Uruguay ha una storia, il Cile ne ha un'altra, l'Argentina ne ha un'altra. Ne cito solo tre, ma ci sono anche la Bolivia, il Perù, tutti gli altri paesi latinoamericani. L'Argentina ha una giustizia di transizione numerosa, efficace, meno tardiva delle altre. L'Uruguay ha una giustizia di transizione a dir poco problematica e sparuta nei casi giudicati. Il Cile ha avuto recentemente, negli ultimi 3 anni, un'improvvisa impennata in alcune situazioni, cioè ci sono state sentenze, ma attenzione, tutte sentenze pronunciate con il vecchio rito, chiamiamolo inquisitorio italiano, cioè sentenze scritte dove non si va in un'aula e dove un giudice istruttore scrive nel suo ufficio una sentenza che poi ha un peso specifico importante, chiaro, ma non consente il momento pubblico del processo come quello che abbiamo vissuto in Italia. Vado in sintesi dunque, tardività ci accomuna e manipolazione, difficoltà nel reperire le fonti di prova. Il risultato di oggi io ritengo sia anche il prodotto di questi due fattori. Nel bene dove si è arrivati, nel male dove non si è arrivati, bisogna fare i conti con il fattore tempo, nemico invincibile, e con il fattore condizionamento politico, usiamo questa parola senza timore di sbagliarci, nel costruire faticosamente nel tempo le verità giudiziarie in America Latina. Io gioisco e ho dei sentimenti molto forti per il caso Montiglio, perché il caso Montiglio è il caso, idealmente, anche se riguarda una persona che ha un nome e un cognome, è il caso che idealmente abbraccia tutta la storia del Cile, dei 20 anni di dittatura. E forse abbraccia anche le fasi successive alla fine di quella dittatura. Perché il caso Montiglio, abbiamo letto e avuto in udienza il verbale dell'esecutore materiale di quell'omicidio. Noi sappiamo chi è, si chiama Lopez Herrera, non è stato mai indagato in Italia, non è mai stato processato in Cile, ma addirittura abbiamo una sua dichiarazione confessoria. Ne siamo in possesso. E dunque, quella dichiarazione confessoria è una dichiarazione non di un anno fa, non di 2 anni fa, ma di parecchi anni fa. E dunque la domanda retorica, questa sì retorica, perché il caso La Moneda non ha mai avuto un processo penale? Perché? Ci sono ragioni tecniche, la competenza della giurisdizione militare in Cile e quindi la gestione intranea al mondo militare di questa vicenda, ma ci sono altre ragioni, io ritengo di carattere anche politico. La sentenza di oggi sul caso Montiglio in qualche modo per il Cile idealmente abbraccia tutti gli altri casi, perché la morte di questo cittadino italiano, ma tutta la ricostruzione del caso La Moneda con tutti gli altri omicidi avvenuti a Peldeue e la repressione che è avvenuta all'indomani del golpe e che arriva a Temuco a colpire Omar Venturelli non è nient'altro che il frutto di una politica di deumanizzazione che nei paesi latinoamericani è stata praticata proprio a partire da quel biennio 71-73 e che si è trascinata lungo gli anni 80 e la propria vittoria l'ha ottenuta, non solo attraverso un sistema omicidiario organizzato che nulla ha da invidiare alla Germania di Hitler, anche se i numeri cambiano, la sistematicità, la natura di pianificazione e la natura genocidiaria di questi omicidi ha una politicità fortissima. Si era detto dopo l'apertura dei cancelli di Auschwitz mai più. Ecco, in America Latina questo mai più è stato ripetuto, ma 30 o 40 anni dopo. Nunca más, ma dopo migliaia di omicidi. Nunca más, ma dopo l'indifferenza di una parte dell'Occidente verso quello che accadeva. Non è il caso per il Cile dell'Italia, che si è contraddistinta in senso positivo. Però dobbiamo fare i conti anche con la difficoltà, io penso, di, come dire, misurarsi. In Italia abbiamo avuto nel dopoguerra leggi di amnistia che non hanno avuto meriti, demeriti differenti da alcune leggi di amnistia che abbiamo visto in America Latina. Cioè, diciamo che quando si assiste a fenomeni di violenza politica organizzata, si fa fatica come mondo politico a fare i conti, perché da un lato si deve pacificare una società, ma dall'altro si deve anche fare giustizia, e la cultura giuridica sulla giustizia di transizione cammina troppo lentamente. Guardiamo però a questo punto, l'avrete già fatto voi, quindi non ritorno sulle valutazioni giuridiche, che cosa abbiamo ottenuto? Una giustizia parziale, una giustizia tuttavia da tenere stretta, perché comunque 9 condanne all'ergastolo, sono 8 condanne all'ergastolo sono state pronunciate. È un principio passato. Un principio sull'esistenza del Plan Condor e con tutte le implicazioni che determina è stato poco affermato, e non è poco. Dopodiché bisognerà fare i conti con la motivazione della sentenza, chiaro, ma sicuramente fin da ora, senza leggere la motivazione della sentenza, suona come un pugno sul tavolo la soluzione di tutti i militari uruguayani, addirittura di militari che erano già stati condannati con sentenze passate in giudicato in Uruguay. Quindi attenzione, attenzione, adesso facciamo gli avvocati degli imputati, perché noi dobbiamo essere abituati a immaginarsi dall'altra parte. Se noi fossimo idealmente, chiaro, gli avvocati degli uruguayani condannati in Uruguay ma assolti a Roma, che cosa faremo? Io chiederei la revisione del processo, se non usuale, io chiederei la revisione del processo, perché c'è un contrasto di sentenze fra un giudicato che condanna e uno che assolve. Quindi il tema è politico. Il sono tema fatti diversi. Non sempre sono fatti diversi, non sempre. O comunque si crea una contraddizione, perché si dà una patente assolutoria in Europa, quando in America Latina giustizia per alcune posizioni era stata fatta. Quindi questa è una sentenza per questa parte fin da ora molto problematica, con cui dovremo fare i conti, e dovremo, io ritengo, avere anche, come dire, la forza e l'intelligenza di chiedere alla Procura della Repubblica di Roma di fare non il possibile, l'impossibile e più dell'impossibile, per integrare alcune prove se sarà necessario, e per spendersi con intelligenza e vigore giuridico per dare, come dire, giustizia dove non c'è stata. E certamente l'impossibile, Jorge Turturro ha fatto già l'impossibile, e non in questo processo, anche in molti altri. La 24 marzo si è mossa dove si è mossa, con grande intelligenza anche culturale. C'è stato un lavoro collettivo di avvocati, parti, legami con le associazioni in America Latina. Tutto questo è un patrimonio che comunque è nelle nostre mani, va valorizzato, e dobbiamo, come dire, stringere i ranghi, perché dove si è perso con una soluzione ai sensi del comma 2, quindi per insufficienza, non per inesistenza delle prove, per insufficienza o contraddittorietà, dovremo sanare quelle contraddizioni e cercare di recuperare in appello. Non è finita, in altre parole. Grazie. Ma tutti, indipendentemente dalla soluzione dei singoli casi. Quello che opino io, Maria Victoria Moyano Artigas, per chi non la non la conosce più. Sì. Solo lo voy a opinar, o sea, desde el lugar de una víctima, una hija que viene desde la Argentina viajando kilómetros para una sentencia acá en Italia. ¿Y por qué me ocasionó tanto la indignación? Digo, porque de alguna manera, o sea, yo no soy de las que, después de la experiencia de tantos años siendo querellante en distintos juicios, no opino que todo se va a resolver en los tribunales, esa es la verdad, pero sí tenía alguna expectativa de poder irme con más información y con algún tipo de condena, porque lo que caracteriza la situación en Uruguay, probablemente vos lo dijiste, pero a mí me cuesta entender el idioma, es que en Uruguay hay leyes de impunidad. Por lo tanto, las víctimas no podemos iniciar juicios en Uruguay porque nos están impedidos iniciarlos. Algo que comenzó así la Argentina en los 80 y los juicios en Europa ayudaban mucho a todo el proceso argentino. Bueno, uno tenía la expectativa de que un juicio en Italia pudiera ayudar, ¿no?, de alguna manera al juicio y castigo a los genocidas responsables, y de alguna manera también nosotros poder continuar sobre esta experiencia en el Uruguay con una lucha que era judicial y también política, ¿no? Porque en Uruguay prima mucho la impunidad por decisiones políticas. Esto que hablaba Andrea, que un poco entendí que fue la transición en Uruguay, ¿no? La transición en Uruguay fue pactada y desde ahí, por todas las fuerzas políticas, y desde ahí se pusieron de acuerdo para que hubiera amnistía y luego una ley de impunidad que continúa vigente hasta el día de hoy. Entonces, para los uruguayos, está acá mi tío, Dardo, que desde muy pequeño vio cómo se llevaron detenidos a sus hermanos y la desaparecieron a su mamá, a su hermana, mi mamá. Y para nosotras nos vamos con una desilusión, y al mismo tiempo digo, porque yo lo veo desde dos lugares, ¿no? La experiencia argentina es que yo le contaba a distintos compañeros que yo fui querellante en un montón de juicios en la Argentina, todos con sentencia favorable, pero no supe nunca el destino de mis padres, y hace 38 años que vengo, hace 9 años, desde los 9 años encontré mi identidad, siempre fui querellante en los juicios, pero nunca supe el destino. Entonces es como que uno decía, bueno, si nosotros podemos acceder a algún poco de información y algo, algún tipo de condena, podíamos avanzar. Yo creo que, bueno, yo felicito y realmente me pongo contenta con que haya muchos familiares acá de otros países que hayan podido avanzar y que esto sirva para poder avanzar en los propios lugares. Nosotros lamentablemente nos vamos de esta manera, con mucha bronca. Yo también en particular, digo, por lo cual estallé en el juicio, tengo que decirlo, es desde un punto de vista político también, porque el Estado uruguayo se presentó como querellante en este juicio, como nos presentamos mi tío y yo, con la diferencia de que nosotros no estamos sosteniendo las leyes de impunidad. Y sí, el vicepresidente y todo el régimen político uruguayo. Entonces me dio mucha indignación verlo ahí como identificándose con las víctimas. No, no se puede identificar con nosotros, porque nosotras peleamos contra las leyes de impunidad y él las sostiene. Entonces fue una conjunción de cosas, de indignación, que bueno, que la exploté en Argentina, cuando no hay justicia y escrache, decíamos los hijos en los 90. Bueno, salió esa fuerza de la indignación, un poco también las reacciones argentinas. Salió porque nos vamos así, nos vamos con una sentencia completamente injusta. Nos vamos con una sentencia que dice que en Uruguay no hubo Plan Cóndor, o sea, el Uruguay no fue parte del Plan Cóndor, y con igual nos vamos también como le decía a mi tío, también con la fuerza de seguir peleando, o sea, no es que nos vamos ni deprimidos ni nos vamos a pelear, toda la vida peleamos, así que vamos a seguir. Hay un dicho en la Argentina que se dice, que se canta, para los represores genocidas, a donde vayan los iremos a buscar, y bueno, y vamos a seguir así, peleando, y a donde vayan los iremos a buscar. Pero no puedo estar festejando hoy, discúlpenme, estoy como estoy. Sí festejo que hayan otros que puedan avanzar, y a nosotros nos queda la tarea de tratar de revertir la sentencia, dar las peleas en nuestros países también, digo, porque, bueno, nos queda mucho trabajo. No sé si Luis pudiera cualquier cosa. Luis Sánchez, de la Embajada de Bolivia. Luis Sánchez, una cosita, veamos el panel de la Bolivia, porque habíamos metido el Chile. Voy a intentar en Madrid, Uruguay. Prima, solidarizarme con, sinceramente, como el gobierno está hablando ahora con los ministros de allá, la solidaridad pesada nuestra con los familiares de todas las víctimas que van a ser en esta justicia hasta ahora. Luis, ¿qué? Venía acá en el medio, Luis, por favor, porque si no, es más fácil. Decía que en primer lugar, expresar la solidaridad de Bolivia, lo he hablado, decía con el gobierno, con todos los familiares de tantas víctimas que van a seguir sin encontrar por ahora justicia, y reconocimiento a lo que pasó y culpabilidad a todos los que fueron responsables. Frente a eso, no quiero repetir los análisis que se han hecho, pero comparto varias de las cosas que se han dicho, ¿no? Esencialmente, que el hecho de que se condene, se criminalice, se reconozca la criminalidad del Plan Cóndor es un avance. Que en Europa se haga eso es un avance, pienso yo, para nosotros y para otras partes del mundo, como también se ha dicho. Perdón, despacio, ¿no? Pienso que en Bolivia, bueno, en Bolivia tenemos ya en la cárcel a los dos asesinos, el presidente y el ministro de Interior de entonces, y eso no cambia, pero es muy importante que sí haya un reconocimiento, acá una declaración de que son culpables. Ayer hablábamos y decíamos, probablemente no se va a hacer esa declaración, va a haber condenas a los otros, que es lo que falta que se condenen. A los nuestros están condenados ya, los que no están condenados son los que interesa que se condenen. Es cierto. Pero al mismo tiempo pienso que, al menos en Bolivia, se empieza a poner en marcha la Comisión de la Verdad, se han empezado a desclasificar archivos, estamos iniciando ese proceso. Esta sentencia va a ayudar mucho a que eso se haga. Y en los otros países, hasta qué punto es también necesaria esa desclasificación de archivos. Pero si hubiera un movimiento social fuerte en esta demanda, creo que ayudaría mucho para futuros juicios y para que todos conozcamos los datos concretos de lo que ocurrió. Creo que en Bolivia va a tener este fruto, ¿no? Digo, no es tanto la condena de las personas que ya están en cárcel, sino la constatación de que esa Comisión de la Verdad, que recién ha empezado a funcionar, debe impulsarse con todas sus fuerzas y que se han de hacer una desclasificación rápida de todos los archivos. Pienso que este es el resultado tan positivo para Bolivia y que espero que podamos compartir otros. No sé si hay, se c'è qualche altro avvocato che vuole aggiungere qualcosa. Alicia Mejía, gli avvocati sono anche donne, tutti maschi. Poi può parlare anche in spagnolo. Si prefiere che hable in spagnolo. Yo creo que hoy día no debe ser un día de tristeza para nadie. Creo que un proceso se termina con una sentencia definitiva. Hoy día es un camino que hemos empezado y hemos obtenido ya algunos resultados. El Plan Cóndor ha sido declarado, ha sido reconocido. Nosotros hoy día nos encontramos con un material de pruebas que hemos acumulado a través de las declaraciones de muchos testigos. Tenemos también tantos documentos que demuestran que aquellos que han sido absueltos, atención, no por no porque los hechos no existen, sino porque algo ha faltado para que el tribunal pueda decir ellos son los culpables de este hecho. Los hechos han sido demostrados, porque si no hubieran sido demostrados, la absolución habría tenido otro sentido. El fato, el hecho, no existe. Ellos con la sentencia, el tribunal lo ha dicho, la sentencia lo dice, el hecho existe, falta algo para que Espinoza Bravo, para que Ernesto Trócoli y los uruguayanos puedan ser condenados. Es una lectura que hoy día nos ofrece el tribunal. Es una lectura no definitiva, es una lectura que nosotros tenemos la obligación y el empeño de poder leer y de poder evaluar con toda la documentación y todo lo que ha salido del proceso. Este es el trabajo que tenemos que hacer, como ha dicho la amiga. No hemos perdido. No nos vayamos con esa sensación de amargura, sino vayámonos contentos. Hoy día en América Latina se dice, el plan Cóndor existe, hay algunos condenados, respetamos la justicia italiana que ha interpretado los hechos, la responsabilidad de algunos en alguna forma, nuestros abogados y nosotros contribuiremos a cambiar esa interpretación. Hoy día es un día de fiesta, es un día que, no digamos de fiesta, es un día de sentimientos encontrados, sentimientos de alegría, pero sentimientos también, digamos, de una decepción que no nos debe invadir, que nos debe permitir de llevar adelante nuestro trabajo. Hemos trabajado hasta hoy. El problema, como decía el abogado Esperanzoni, es un problema también de pruebas, porque nos encontramos con dos sistemas jurídicos completamente diferentes. Un tipo de pruebas que en América Latina, y lo sé muy bien, se adquiere a través de lo que es un proceso sumario que lleva pues los hechos a una corte, pero ya con toda una serie de declaraciones ya obtenidas. Acá el sistema es diferente. El sistema es, tú te presentas, hay el testigo, el testigo, tienes una parte que te pregunta y la otra parte que te pregunta. Lo mismo para los acusados. Hoy día tenemos la grande victoria que hemos podido hacer un juicio a personas que en el país, en América Latina, no lo habrían más tenido. ¿Por qué? Porque no se puede seguir, me refiero en el caso de Trócoli, el juicio en contumacia o en ausencia. Sabemos que en América Latina el sistema nos dice el acusado tiene que estar presente. Aquí ha sido presente, pero también hemos podido seguir el juicio de Espinoza Bravo y de todos los otros, ¿no? Entonces, hagamos atención, hoy día no es de tristeza, es un día de sentimientos contrapuestos, donde tiene que prevalecer la sonrisa, porque hoy día, sobre todas las primeras planas de los periódicos de Latinoamérica, se dice, el plan Cóndor ha sido demostrado y una justicia autónoma, lejana a nuestros países y sin condicionamientos, lo ha declarado. Este es el mensaje que tenemos que llevar y que tenemos que trabajar. Los abogados ahora nos tenemos que esforzar a leer todos los actos. Gracias. Bueno, dentro de poco nos están esperando con la cena, pero entonces habló Alicia, que es peruana, habló Luis de Bolivia, Argentina y Uruguaya, y hay otro uruguayo, Gambera, el sindicato del sindicalista del Pizza MT. Buenas noches. Que recién llegó. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Yo de Uruguay. En primer lugar, dos cosas importantes. Claro que no se viven las cosas igual desde el lugar que lo viven los familiares que desde los luchadores sociales que acompañamos todas estas luchas. Pero esto de las sensaciones encontradas, aún en la diferencia desde el lugar que lo viven, lo estamos sintiendo todos. Esto, primero que nada, que quedara como primera reflexión prematura. No estoy diciendo una posición de la Central Sindical Uruguaya, porque obviamente estoy yo solo acá, no tengo una posición de la dirección como tal, pero asumo que la dirección del Movimiento Sindical Uruguayo está viviendo esto con las mismas sensaciones encontradas que lo viven ustedes. Por otro lado, el reconocimiento a todos quienes tuvieron que ver en esto, y el patrocinio y demás, de parte de nuestra, del movimiento sindical, pero de los uruguayos en general. Yo me estaba acordando de una canción de Zita Rosa, uno de los cantautores que más queremos los uruguayos, en un tema que es un homenaje al pueblo argentino, las décimas de homenaje al pueblo argentino, y en uno de sus pasajes dice: no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Y por eso va a parecer que entro en polémica con la compañera, yo no estoy entrando en polémica, solo quiero hacer algunas anotaciones al margen para que quede algunas reflexiones junto con eso. Yo no quisiera comparar cómo han sido los procesos en cada uno de nuestros países, porque los pueblos construyen su historia como pueden, como van pudiendo, y claro que tenemos adelantos y retrocesos. De eso aprendemos los luchadores sociales. Las conquistas, los cambios se logran con generaciones, y la construcción de la memoria se logra con generaciones. No es el túnel corto en ese sentido. Y en el Uruguay no es verdad que todo el sistema político estuvo de acuerdo en la impunidad. Hubo incluso un senador que le costó su cargo de senador de la República en el año 86 por haber sido acusado de provocar una sonada en contra de esa ley. La votó una mayoría parlamentaria. Pero los uruguayos dimos una lucha, tanto el movimiento social como el movimiento político, por un plebiscito en el año 89, que era el famoso voto verde, en contra de esa ley de impunidad para derogarla. Y perdimos, compañeros. La gente votó que la ley no se derogara. Y cuando la gente vota, los uruguayos por lo menos tenemos eso muy marcado a sangre y fuego. Si la gente votó, esa ley quedó vigente porque hubo un plebiscito popular con voto directo. Mientaliance. Pero después de eso, y aprovecho que llegó Mientaliance fiscal en el pasado, en el Uruguay, después de eso, la lucha siguió, como sigue la de todos ustedes. Y por eso digo, hoy es un día importante, con todos los sinsabores y con todos los sentimientos encontrados que tengamos, es un paso más. Y no hay nada más sin apuro que ir dando un paso más en favor de la democracia, en favor de la memoria y en favor del nunca más. Y los uruguayos supimos de esto porque después de tratar de ir cambiando las cosas, en algún momento se aplicó esa ley que no pudimos derogar, para poder enjuiciar a estos militares que acaban de ser sueltos acá. Porque todos esos militares que acaban de ser sueltos acá, salvo Trócoli, que está acá, los demás están presos allá, en Uruguay. Están juzgados y presos. Y mañana, la derecha, que los ha defendido siempre, va a decir que son presos políticos porque fueron sueltos acá. Que quede claro. Vamos a tener que dar una lucha muy fuerte para decir que en realidad eran responsables y eran asesinos, porque muchos de la derecha de Uruguay van a decir, ¿cómo? Allá son culpables y acá son absueltos, entonces allá son un montaje político que hicimos para culparlos y tener presos políticos. Esa es la lucha que empieza mañana, que ya empezó, porque mi teléfono no para de sonar. Y de eso Mirta Allán se sabe mucho, porque fue fiscal en varios de esos procesos. Entonces, lo que quería decir es, sí, a veces tenemos estos sinsabores. Las luchas sociales, la lucha por la democracia, por la vida, por el mejor destino de nuestros pueblos, tiene avances y retrocesos. Pero cuando nos toca sentir que dimos un retroceso, en realidad lo que tenemos que pensar en que del avance que dimos nunca nos van a poder hacer volver atrás. Siempre que los pueblos dan un paso adelante, empiezan a caminar desde ese paso en adelante para adelante, y nunca nos pueden volver a hacer atrás. Entonces, yo no digo que festejemos, pero sí que valoremos que por primera vez en el mundo el Plan Cóndor estuvo enjuiciado, que resultó como resultó hoy, está bien, pero sus principales responsables están todos castigados con la máxima pena. Asumo que Gregorio Álvarez hubiera sido culpable también, pero se murió antes, tuvo esa suerte. Era el presidente de Uruguay en aquellos tiempos, en el mismo momento que era canciller Juan Carlos Blanco. Por tanto, si hay un hilo conductor en esto del fallo, asumo que Gregorio Álvarez hubiera sido culpable. Por tanto, yo no digo que esté satisfecho, es más, estoy con todo un sentimiento de indignación, defraudado, pero lo primero es que tengo que llegar a Uruguay diciendo: el Plan Cóndor está enjuiciado en Italia, el que lo quiera negar ahora no lo puede negar más, y que no se vuelva a discutir esto de su existencia, y por tanto habrá que demostrar que todos los que han sido sueltos tenían responsabilidad directa en la ejecución también. No es fácil, pero esa es la lucha que sigue. Gracias. Porque no, sobre este asunto. A mí lo que me ha llamado la atención, bueno, nosotros tuvimos, como él dice, unas luchas tremendas por la ley de caducidad y por todo lo que pasamos en Uruguay. Con todo logramos enjuiciar a mucha gente, están presos, y estos que la mayoría de los que son absueltos hoy están presos en Uruguay. No tenía tanto sentido hacer el juicio acá, porque igual van a seguir presos allá hasta que se mueran, porque se están muriendo, pero de cualquier manera que quedara claro en este país y en Europa lo que pasó en el Cono Sur y lo que nosotros sufrimos. Tuvimos que pasar por muchas muchos avatares diferentes para lograr vencer, dar pasos y tener diferentes, y tener inventiva para pasarle por arriba la ley de caducidad, pero al final fuimos logrando cosas. Lo que me llama la atención el día de hoy es que, es lo que yo entiendo, no sé si me equivoqué, que el jurado no captó de la manera como se procedían los grupos de tareas, las patotas que operaban en nuestros países. Porque no se trata de un sistema jerárquico militar, había uno que daba la orden de matar, sino que allá cada cual sabía que podía torturar y podía desaparecer. Lo que interesaba era conseguir información, eliminar enemigos, y había grupos que trabajaban en forma casi autónoma, y eso pasó en la Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Paraguay. Y acá se tomó en cuenta como la jerarquía. El principal es el que es responsable del homicidio, y el otro solamente del secuestro. Eso no sé cuál será la forma, si desconozco el código del proceso penal italiano, entonces no sé cómo se puede remontar eso y hacer se puede hacer nueva prueba, se pueden agregar elementos, si se pueden reinterpretar los hechos, si se puede analizar los conceptos de coautor, de autoría inmediata, de todo ese tipo de cosas, que eso está para los abogados de Italia, que son grandes abogados, por lo que he visto. Y me da mucha pena lo que pasó hoy, pero a la vez he tenido que explicar cómo en 70 radios y canales de televisión, que en realidad sí, el Plan Cóndor existió y se condenó a las pulgas, pero va a ser difícil cuando lleguemos allá explicar que esta gente que está presa fue absuelta en Italia, porque ellos han dicho muchas veces que nosotros hicimos juicios sin garantías. ¿no? Y que una de las personas que no había intervenido en lo que yo soy yo, no quiero ser autorreferencial, porque soy enemiga de las Fuerzas Armadas y ese tipo de cosas. Pero siempre vamos a seguir peleando y vamos a seguir peleando acá, allá y en todos lados, y en todos los países de América Latina. Y eso es lo que me parece que es importante, que nadie baje los brazos. Y con gran vergüenza tengo que decir que en mi país actualmente los juicios están casi todos paralizados. Yo hace más de 4 años que me fui de la fiscalía y lo que dejé así quedó. Digo, no se movió casi nada. Entonces creo que todos tenemos que asumir, y es distinta la realidad de Argentina e incluso distinta la realidad de Chile y distintas las interpretaciones jurisprudenciales. Nosotros tenemos un atraso tremendo en ese sentido. La Corte Suprema de Uruguay es un atraso, y entonces eso que nosotros estamos peleando todos los días por cambiar la forma de designación, por todo eso, pero es una lucha que continúa y lo tengo. Margarita no quiere decir nada, o a lo mejor dejarla más a más tarde. Sí, por favor, embajador. Embajador retachado de la República de Chile. Voce. Muy importante, a todos los países víctimas. Quería hablar del sentimiento de mi hija. Decía que si hay algo importante que yo valoro es que han pasado más de 40 años y las víctimas de los países del Plan Cóndor están aquí. Se pararon ante un tribunal a exigir que haya justicia. Y eso yo creo que es algo muy importante. Si pensamos en el siglo XX, si pensamos en la Guerra Civil Española, después de 40 años las cosas quedaron tal cual y nadie investigó nada y nunca se supo nada más. Yo, si lo pongo desde el punto de vista del dolor, estoy con las víctimas. Por supuesto, no duele mucho lo que sucede hoy día. No puedo estar contento, no puedo estar alegre. Me parece terrible la frustración. La chica que habló, Margarita Maio y todos los demás que están acá, sienten un sentimiento de injusticia. Pero, si lo veo desde el punto de vista de la ley, se ha aplicado un proceso, un procedimiento que todo el mundo aceptó. Recurrir a eso, y cuando se va a la justicia pueden pasar muchas cosas como las que pasaron hoy día. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que hay que estar tranquilo, porque además hay instancias de apelación todavía a este fallo. Así que quisiera solamente decir que estoy con los familiares. El gobierno de Chile tiene que respetar la sentencia, los fallos. En el caso de nuestro país tenemos más de 100 militares cumpliendo condenas, muchos de ellos a cadena perpetua. Siempre va a quedar un margen de impunidad, sin duda. Nunca todos aquellos que fueron culpables pasan por un tribunal, pero por lo menos la figura más simbólica, y en el caso nuestro, el jefe de los servicios de inteligencia murió con 400 años de condena de cárcel, y los otros generales que siguen presos están condenados a más de 300 años de cárcel, y hay más de 100 presos. Y lo más importante, gracias a la valentía de muchos jueces chilenos, todas las causas siguen abiertas. No hay derecho a la impunidad, y mientras haya gente dispuesta a jugarse por la verdad, van a seguir abiertos esos casos en Chile. Así que eso, compartir con ustedes y expresar mi solidaridad con todas las víctimas y los familiares, y es la parte más dura de todo. Gracias. Bene, se non ci sono domande o qualcosa, vi invito ad accomodarsi, ad accomodarvi al piano di sopra. Che... Chi vuole rimanere al centro?